Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 25 gennaio, buongiorno, bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori dal carcere della Dotta, dalla nostra cittadinanza di Bologna e dalle carceri dell'Emilia Romagna. Siete su Liberi Dentro Eduradio TV, io sono Caterina con Antonella Cortese che saluto. Ciao Antonella. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti voi. Sempre qui con voi tutti i giorni, un'ora al giorno, sulle nostre emittenti che ormai conoscete, Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Ma partiamo subito dalle notizie di oggi. Ho letto questa notizia, guarda Antonella, che mi ha incuriosito moltissimo sul giornale Il Dubbio, a firma di Davide Vari, che riguarda le dichiarazioni dello scrittore e personaggio pubblico Roberto Saviano, che come sapete ormai da diversi anni nei suoi scritti, anche a partire dal suo romanzo di esordio che si intitola Gomorra, utilizza la letteratura e il reportage per raccontare la realtà economica, di territorio, di impresa della camorra e della criminalità organizzata, anche in senso più generale, cosa che forse, come molti di voi sanno, gli è costato moltissimo, siccome a causa delle minacce di morte ricevute proprio da sistemi e organizzazioni criminali, da 15 anni vive sotto scorta. Ecco, insomma, questa notizia sul Dubbio mi ha colpito perché c'è una dichiarazione dello scrittore Roberto Saviano sulla morte di Antonio Raddi, che forse vi ricordate, qualche settimana fa vi ho raccontato la storia di questo ragazzo 28enne che morì proprio al carcere Le Vallette di Torino a seguito di una malattia, poi perse tantissimo peso in pochissimi mesi e secondo i genitori non avrebbe ricevuto un'assistenza sanitaria adeguata. Sulla sua morte, scrive Saviano, avvenuta nell'indifferenza generale, ecco, c'è molto da riflettere e lo stesso Saviano ammette che nemmeno so più in che termini parlare del carcere, trovo un muro di gomma inconcepibile. Senti, ma il suo j'accuse contro il carcere è fatto anche di buoni propositi, no? Guarda, tocchi un punto fondamentale perché quando si fanno accuse contro sistemi importanti come anche quello del carcere, non bisogna poi mai dimenticarsi anche di fare delle proposte migliorative. Saviano ci prova. Vi leggo quanto scrive Saviano sulle pagine di Sette, che è il settimanale del Corriere della Sera, proprio sul mondo del carcere. Lui scrive: non più edilizia carceraria, ma meno detenuti, non l'introduzione di nuovi reati o l'inasprimento delle pene per quelli già esistenti, ma educazione alla responsabilità. Oggi, più che in altro momento della storia, chi fa informazione ha una responsabilità enorme, quella di ragionare assieme a chi legge. Quindi, per riassumere, sono due le prospettive che propone Saviano: quella di un carcere meno sovraffollato e più teso a rieducazione e al reinserimento delle persone detenute, come sancisce la nostra Costituzione all'articolo 27, ma anche quella più diretta al quarto potere, così dire, cioè alla stampa. Non più una stampa allarmistica che cavalca sui mal di pancia popolari, che crea allarmi nelle persone, ma una stampa che faccia riflettere i suoi lettori, aprendo le menti al dubbio e quindi anche alla consapevolezza. E questo è molto importante, aprire la mente al dubbio e alla consapevolezza, perché concordo con Saviano che spesso la tendenza generale è proprio quella di trattare il carcere come un mondo invisibile, dimenticato, il buco nero, ignorato tanto da chi fa informazioni quanto anche poi dalle istituzioni. Sì, e lo stesso Saviano continua dicendo che nelle pagine dei giornali spesso si assiste al fatto di sbattere il mostro in prima pagina senza dare conto delle archiviazioni, delle assoluzioni, parlando di prescrizioni come se fosse un regalo verso l'imputato e non invece il diritto negato a essere giudicati in tempi più umani. E siccome il carcere viene raccontato solo per mappare gli arresti, scrive Saviano, ci si accontenta di sapere che dentro finisce chi ha un debito con la comunità, chi deve pagare, scontare, essere privato della libertà, senza preoccuparsi mai di come viene impiegato il tempo che dovrebbe servire al reinserimento delle persone. Quindi questo è molto, molto vero. Quindi lui riparte dalla storia di Antonio Raddi, questo ragazzo dimenticato da tutti, per riproporre il carcere, una riflessione importante sul carcere. E lui alla fine, Saviano, dice che questa indifferenza per la morte di questo detenuto alla fine è questa indifferenza generale della nostra società verso ciò che rimuoviamo, che tendiamo molto più facilmente a lasciare nel dimenticatoio. E lui dice: mi accorgo che manca non tanto e non solo la cultura del diritto, ma la cultura dei diritti, perché giustamente dice i diritti riguardano tutti, perché un diritto negato diventa automaticamente un privilegio per pochi o peggio una concessione. Io mi sono sentita di proporvi questa riflessione di Roberto Saviano perché il carcere ci deve invece interessare, è un quartiere della città e quindi chiudo, tra pochissimo ci rivediamo sempre con Antonella, ma chiudo con una canzone, Alan Walker, che è un genio norvegese che ha scritto questa bellissima canzone nel 2016, si chiama Faded, e la dedico a Giuliano, Giuseppe e Pasquale e Leopoldo della Dozza. A fra pochissimo. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid I out of sight, wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all? Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro ed Euradio TV dopo la pausa musicale. Siamo con te, Antonella, e ci racconti di Ignazio, che molti di voi conoscono in particolare dalla Dozza, e del suo viaggio in Cairo. Sì, allora sapete, come diceva Caterina, conoscete tutti Ignazio De Francesco, no? Il frate dossettiano che è volontario AVOC, che spesso viene a fare i colloqui alla Dozza, che però è anche un grande viaggiatore. E infatti la sua comunità, la comunità di Montesole, lo manda spesso nei paesi di lingua araba e ultimamente è stato in Egitto, al Cairo, città della quale, tra l'altro, Caterina, ti ricordi, abbiamo già parlato in qualche puntata precedente. E comunque, insomma, oltre a viaggiare e ad andare alla Dozza, eccetera, Ignazio è anche un bravo utilizzatore dei social, soprattutto Facebook, sul quale condivide le sue riflessioni. E quella di cui vi voglio parlare oggi si chiama, perché poi l'ha anche intitolata, Il tassista e il monaco. Beh, oltre che un grande utilizzatore dei social, un monaco, un grande volontario, perché alla Dozza oltre 12 anni va per i colloqui, Ignazio cura anche la rubrica nostra su Eduradio, Islam 50 post per dialogare. Sì, infatti, che poi praticamente è nato anche un libro da questa sua esperienza su Facebook. E ormai quindi è espertissimo. E lui racconta, adesso arriviamo subito al cuore del post, lui racconta che per fare pratica di arabo parlato non c'è migliore modo, e anche più economico se ci pensate, che viaggiare in taxi sulle strade del Cairo. Infatti, salendo in auto si tratta soltanto di sciogliere il dubbio cruciale Timshi bi Haddad, au bindun Haddad, cioè Viaggi con il tassametro o senza? Perché è diverso. Se senza, bisogna trattare il prezzo della corsa. Infatti, per un percorso medio di una decina di chilometri, percorribile in funzione del traffico in 30 o 60 minuti, si calcoli tra le 60 e le 100 lire egiziane, che equivale un po' ai 4-6 euro nostri, mancia inclusa. E un'altra avvertenza ad Ignazio è nella scelta del posto davanti o dietro, perché non bisogna trascurare che se ci si siede accanto all'autista e si allaccia, come facciamo generalmente noi, la cintura di sicurezza, che ovviamente il tassista del Cairo non concepisce un granché, bisognerà tenere poi in conto che camminerete tutto il giorno con una lunga striscia nera impressa in diagonale sulla giacca o sul maglione. Indizio inequivocabile che quella cintura non è stata mai utilizzata prima di quel giorno. Poi il tassista cariota può essere un uomo del popolo con un basso livello formale di istruzione oppure un intellettuale laureato e coltivato, può appartenere a una stirpa di tassisti e quindi raccontare poi della sua famiglia, oppure semplicemente può aver iniziato come meccanico di auto, cosa che poi è rassicurante al pensiero che la tua auto, quando sussulta e borbotta, può essere riparata dall'autista, oppure può essere anche un neofita, semplicemente una persona che prima faceva l'insegnante, l'impiegato, la guida e poi diventa tassista. Quindi con questo uomo del viaggio, il taxista, vero Antonella, si possono anche intrattenere interessantissime conversazioni, vero? Sì, sì, Ignazio poi ci dice che dobbiamo mettere in conto un po' una certa prudenza dovuta al fatto che i tassisti, così come chi appunto vende cose per strada, gli ambulanti, svolgono anche il compito discreto di controllo su chi va e chi viene. Che cosa pensano e che cosa dicono le persone con cui si interfacciano. E poi dice, si può parlare ovviamente in inglese, ma è soltanto in arabo che possono estrarre tutte le loro notizie e i ricordi di una città drammatica e strepitosa nello stesso tempo, perché parlano e lasciano parlare, niente di meglio chiaramente per chi vuole fare pratica di arabo. E a volte, se la conversazione diventa particolarmente calorosa, non è raro sentirsi dire al momento di pagare alaya alaya, cioè offro io. Ovviamente i soldi poi uno glieli dà, però insomma sembra che li accettino un po' controvoglia. Ma scusa, chi sono i tassisti monaci a cui hai accennato prima? Sono quelle persone, quei tassisti che viaggiano tutto il giorno sintonizzati su un canale che trasmette incessantemente la recita del libro sacro dei musulmani intercalata da esortazioni spirituali. Ovviamente non a tutti, soprattutto agli stranieri in visita, non a tutti quindi fa piacere stare in un taxi dove c'è questo continuo sottofondo, però Ignazio, giustamente, essendo un monaco dell'altra sponda, è abituato alla recita quotidiana di Salmi e del Vangelo, e quindi non si è mai fatto problema per questa abitudine diffusa e così resistente all'urto della postmodernità. E infatti lui racconta che se attacca discorso, magari proprio approfittando di un versetto del Corano, subisce regolarmente un tentativo di conversione. Ma poi insomma quello è un argomento per fare pratica di lingua, no? E, insomma, lui dice, per un monaco non c'è nulla di meglio che discutere di teologia con un altro monaco, pur se sposato e con i figli. E tra questi tassisti monaci spuntano di tanto in tanto anche dei cristiani copti, che intuita ovviamente molto facilmente, perché sapete come veste Ignazio, cioè si capisce che lui è un monaco, quando capiscono con chi hanno a che fare, iniziano a parlare con calore di Gesù e Maria e soprattutto della loro grande passione, i monaci e i monasteri. Si dice infatti che se l'Egitto ha conservato, a differenza di tutti gli altri paesi del Medio Oriente, Libano escluso, un così grande numero di cristiani, si parla infatti di una decina di milioni, è per la perdurante presenza del monachesimo. E poi di solito quando giunge a destinazione, ed è in questo contesto diciamo di cristiani copti, spesso gli chiedono di fare una preghiera, di pregare per loro, per la loro famiglia, proprio perché dicono che l'Egitto sta sotto la benedizione dei monaci. E, passiamo alla musica con Farhan Ensemble, e tema che cantano un poema di Galil Gibran. Ma poi non andate via, perché c'è l'intervista di Caterina all'assessore al welfare con delega al carcere di Bologna, Luca Rizzonevo. A dopo. لكي تصير مثله. ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم. ولدكم ليسوا لكم ومع أنهم يعيشون معكم فهم Rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Siamo sempre su Liberi Dentro e Duradio e TV, il programma, come sapete, amiamo ripetere, fa da ponte tra carcere e città, e oggi l'ospite con noi è l'assessore al welfare, nuove cittadinanze e fragilità del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, a cui do il buongiorno e soprattutto a cui chiedo di raccontarci un po' di sé, come mai ha scelto la politica come impegno già ormai quasi 20 anni fa. Ma perché da sempre, sin da ragazzo, diciamo, ho pensato cocciutamente che occuparsi del bene comune, occuparsi degli altri da sé, ascoltare e raccogliere i bisogni delle persone e provare a trovare soluzioni per accontentare, per rispondere a quelle aspettative, fosse un modo straordinariamente bello di impegnare il proprio tempo, le proprie idee, le proprie passioni, e perché è convinto che una città in cui appunto tutti, anche le persone che mostrano maggiori fragilità, complessità, possono sentirsi cittadini in modo pieno, è una città dove si sta meglio tutti, ecco. E quindi anche questo ha spinto nell'impegno politico, che appunto dura da tanti anni, a occuparmi sempre, insomma, di sanità, di welfare, di bisogni delle persone, ecco. Quindi sicuramente questa è stata una passione che è maturata sin da giovanissimo e che poi è proseguita in un impegno politico e istituzionale che mi ha visto prima in provincia a fare il capo di gabinetto della presidente della provincia di Bologna, poi eletto in consiglio comunale nel 2009 e dal 2011 al 2017 assessore al welfare e alla sanità del Comune di Bologna, e successivamente nel 2018 mi ha portato ad un impegno parlamentare che tuttora sto svolgendo, a cui il sindaco Lepore mi ha chiesto di affiancare con una non piccola complessità personale logistica, ma con molta passione nell'aver raccolto questa richiesta del sindaco, di tornarmi a occupare di welfare per la città di Bologna, e quindi insomma da ottobre abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato. Lei appunto è assessore al welfare, nuove cittadinanze e fragilità, in particolare poi in questa contingenza particolare di questi 2 anni di pandemia che ci portiamo dietro dal 2020, che non è più in fase acuta ma cronica, possiamo dire. Ecco, le volevo chiedere se ci può spiegare che significato hanno queste deleghe. Ma hanno un significato anche molto concatenato fra di loro, nel senso che welfare troppo spesso è stato immaginato come l'attività del comune, che è una delega ovviamente specifica del comune, di occuparsi di alcune popolazioni che esprimono elementi di fragilità, che possono essere le persone anziane non autosufficienti, i minori, le famiglie, le persone migranti che arrivano sul nostro territorio, la popolazione carceraria, le sue specificità. Insomma, in realtà welfare per me è qualcosa di più, cioè l'idea è un'idea di benessere che attraversa tutta la città e che cerca di ricomporre, diciamo, le tante città che spesso anche una città come Bologna contiene. Ecco, c'è il rischio spesso di interventi, di un approccio, di una visione sulle cose parcellizzata, molto che distingue tanti diversi ambiti. In realtà tutti questi ambiti fanno parte appunto del corpo complessivo di una città e c'è bisogno di ricondurli ad uno, c'è bisogno di promuovere questa dimensione di benessere in termini complessivi e non solo specifici. Questo chiama il concetto di nuova cittadinanza, di nuove cittadinanze, perché appunto intorno, diciamo, a questi anni che hanno prodotto cambiamenti anche molto profondi, radicali nella vita delle persone, una domanda di cittadinanza diffusa emerge anche nella nostra città e quindi per noi il tema non è solo rispondere a dei bisogni, offrire dei servizi, ma rispondere positivamente a quella richiesta di cittadinanza e ovviamente questo riguarda anche lo specifico, ad esempio, delle persone migranti e quindi l'idea che non ci si fermi è solo all'accoglienza o all'integrazione, ma che appunto l'obiettivo finale sia quella di una piena cittadinanza. E infine però, perché, diciamo, piena cittadinanza possa essere, c'è la necessità di riconoscere in una lettura aggiornata, che non sia quella di 20 o 30 anni fa, ma che sia quella dell'oggi, l'emergere di nuove situazioni di fragilità fra le persone e capire anche e soprattutto insieme a loro, quindi in un'idea anche partecipativa e collaborativa della gestione del bene pubblico, come rispondere a queste nuove fragilità perché non si perpetuino, perché non diventino situazioni immanenti, ma che possano invece evolversi positivamente in una domanda accolta di cittadinanza. Noi abbiamo parlato anche lungo la campagna elettorale, oggi nel lavoro amministrativo, di diritto alla fragilità in questa città, cioè che il fatto che le fragilità, i momenti, le complessità della vita non siano qualcosa da nascondere, da mettere da parte, da rendere periferiche rispetto alla città, ma appunto in una idea di città complessiva che vive non solo di successi e performance, ma anche di complessità, fragilità, momenti di difficoltà, queste possano essere riconosciute, possa esserci un diritto a viverle nella loro pienezza, anche ovviamente con l'obiettivo di superarle. Quindi questo è il senso un po' delle mie deleghe, l'impegno che ho avviato in questi mesi. Questo non lo dico io chiaramente, ma lo diceva Albert Einstein, il famoso scienziato, quando si parla di crisi, ecco, la crisi è una delle più grandi benedizioni, diceva, che per le nazioni e le persone, perché porta a dei progressi. E allora io le chiedo quali sono le sfide per la cura della persona nel 2022. Sì, non so se Einstein aveva pensato ad una tale quantità di crisi, tutte concentrate in una decina d'anni che si susseguono. Ormai, diciamo, lo stato di crisi non è più un'eccezione, ma è quasi una normalità. Giusto l'altro giorno parlavo col professor Damagni, che diceva giustamente che la vulnerabilità ormai è già di per sé una condizione umana, ma davvero una condizione che viviamo nella normalità e quindi siamo ormai, ci dobbiamo abituare a vivere una situazione di un po' crisi permanente e quindi davvero raccogliere le opportunità. Beh, certamente noi dobbiamo gestire innanzitutto, spesso si dice la fase del post-Covid, ancorché in termini molto ottimistici, perché purtroppo ci siamo dentro ancora con tutti i piedi, ma certamente dobbiamo gestire questa fase, speriamo finale, della gestione della pandemia e però fare i conti già oggi e subito dopo di tutte le conseguenze profonde che questa pandemia ha lasciato e lascerà sulla nostra comunità, sulla nostra società. Dicevo, l'emergere di nuove fragilità, anche di fragilità di persone che mai avrebbero pensato di trovarsi in situazioni di fragilità e complessità esistenziale e che invece ci si ritrovano per mille ragioni, alcune di natura materiale, quindi persone che hanno perso il lavoro, persone che hanno perso la casa, persone che si trovano infragilite da un punto di vista economico, sociale, esistenziale, ma anche fragilità di tipo psicologico. Noi stiamo registrando una forte, fortissima incidenza della pandemia, di tutto quello che ha prodotto anche sulla, diciamo, tenuta psicologica delle persone e quindi anche sulla capacità di guardare al futuro con una qualche speranza. Ecco, sicuramente, ad esempio, lo sto dicendo spesso in questi giorni, il tema delle famiglie con figli infragilite da questa crisi è una priorità assoluta che abbiamo sul tavolo e più in generale abbiamo sul tavolo la necessità di affrontare, diciamo, i cambiamenti anche profondi che si sono prodotti anche negli ambiti più classici di impegno del welfare cittadino, quindi tutte quelle, come si suol dire, popolazioni di riferimento, anche se, ripeto, per me la popolazione una ed è quella di Bologna, vivono situazioni che sono diverse da quelle che vivevano prima e quindi leggere questi cambiamenti, leggere questi bisogni nuovi, leggere queste attese modificate e rispondere anche attraverso una, ripeto, una pratica di coprogrammazione, coprogettazione con la città è, diciamo, il nostro impegno primario. Ecco, quindi questo è sul welfare, sicuramente nei diversi ambiti di intervento, la quotidianità che abbiamo già oggi di fronte, che ci troveremo ancora più di fronte nei prossimi mesi. Io, Assessore, la ringrazio. Siamo giunti ai saluti ormai fra poco di fine puntata. Ci rivediamo domani. Grazie per essere stato con noi. E rieccovi, bentornati. Vi annunciamo le rubriche a fine della nostra puntata a seguire per la mezz'ora successiva. Abbiamo questa rubrica nuova sulla giustizia riparativa, dove parleremo con Giorgio Bazzega, che è mediatore, nonché figlio di Sergio Bazzega, vittima del terrorismo, per l'appunto sul tema della giustizia riparativa, come l'ha vissuta lui e come si è avvicinato a questi gruppi dell'incontro. Scriveteci, redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, Enea Flacco, Paola Leotti, Diana Bota, e ci rivediamo domani. Grazie a tutte e tutti. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.